vai, il destino già con te, nelle stelle una in più, quella stella sei tu, vedrai. Dal profondo spazio che una luce griderà, tocca a te salvar l'umanità, questa volta. Verso l'orizzonte sei già, anche se nessuno ti guiderà, trovo un posto che sarà il confine tra l'esatto e l'impossibile. Si torna ormai, questa è la tua strada, è il destino a guidarti. Sopra la tua nave il coraggio, credi in te tutto il tuo equipaggio. E se avrai paura, ricorda la tua voglia. Tutti noi.